America 24 di Mario Platero. Da New York, Mario Platero. Barack Obama comincia a raccogliere consensi. Questa decisione sulle tasse, criticata dalla base del Partito Democratico, si è rivelata una mossa politica molto saggia dal punto di vista del consenso dell'opinione pubblica. Un sondaggio del Wall Street Journal e dell'NBC di ieri afferma che il 59% degli americani è favorevole all'iniziativa del presidente e favorevole al compromesso raggiunto con i repubblicani. Sacrificing something that each of us cares about to move forward on what matters to all of us. Right now that's growing the economy and creating jobs. And nearly every economist agrees that that is what this package will do. Avete sentito la voce del presidente Obama, molto soddisfatto per l'approvazione formale ieri al Senato del pacchetto da 858 miliardi di dollari di riduzioni fiscali. Il compromesso è stato raggiunto quando sia Barack Obama che i repubblicani hanno concordato per lasciare invariate anche le tasse sui più ricchi, cosa che ha scatenato la reazione negativa della Camera. Altro fronte su cui si è sviluppato un piccolo successo per Barack Obama è che il Senato, con 66 voti favorevoli, ha approvato l'avvio del dibattito sul trattato START. Attenzione, 66 voti, questo significa che manca solo un voto per poter passare il trattato START. Forse la settimana prossima potremmo assistere a un successo del presidente sul fronte del disarmo nucleare. Ricordiamolo, era l'obiettivo più ambizioso della Casa Bianca sul fronte della politica estera. 20th Century Fox presents another milestone in motion picture history. Revenge of the Nerds. Nerds! Nerds. Nerds! What is a nerd? Ha vinto Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, 26 anni, è diventato l'uomo dell'anno per Time Magazine, anzi, è Person of the Year. Ha battuto sul filo di lana Julian Assange, il volto sfuggente, diciamolo, dietro Wikileaks. In corsa c'erano anche i Tea Parties, il movimento di protesta che più di ogni altro ha segnato la politica in America nell'anno della sconfitta di Obama. La motivazione di Rick Stengel, direttore di Time. Il modo in cui ci rapportiamo fra noi e con le istituzioni, nelle nostre vite e in evoluzione. Il nostro senso di identità è più variabile, mentre allo stesso tempo il nostro concetto di privacy si allarga. Quel che un tempo era considerato un dettaglio intimo è oggi condiviso con una battuta sulla tastiera. La piattaforma di social networking sfiora i 600 milioni di utenti. In un sol giorno ci sono 1 miliardo di nuove tessere nel mosaico dell'informazione, grazie a Facebook, e ha certamente più informazioni sui suoi utenti di quelle che ogni governo potrebbe sognare. Beh, una motivazione che a me sembra un po' inquietante, perché dare il premio a qualcuno perché colleziona informazioni e perché poi queste informazioni cerca di venderle in cambio di un profitto, al di là del grande successo di Facebook, del successo personale di Zuckerberg, mi domando, non è che sia stata accolta benissimo questa scelta, anche perché, e questo devo dire mi colpisce molto, che in questo 2010 la corsa di testa a testa è stata tutta fra nerds. Nerds è un termine americano che definisce generalmente, diciamo, lo sfigato nel gruppo, oppure, come ci direbbe il dizionario, colui o coloro che è poco sicuro di sé, socialmente a disagio, in difficoltà con le donne. Eppure, proprio come nel film The Revenge of the Nerds di Jeff Canew, un classico popolare del 1984, le carte sul tavolo si ribaltano. Ecco, aggiungiamo che Mark si è affermato, questo è importante dirlo, anche grazie a un'accelerazione addirittura d'arrivo, ha annunciato appena pochi giorni fa una donazione a missioni filantropiche del suo patrimonio, 16 miliardi di dollari. Bene, dunque la nomina è fatta, la scelta è avvenuta. Io credo che dobbiamo chiederci quale sia il messaggio sublimale che Time ci vuole dare, perché essendo in bilico tra Assange, che è il grande volto, come ho detto, di WikiLeaks, arrestato però per stupro, e Zuckerberg, che è stato ostracizzato da molti su internet per questo suo tentativo di mercanteggiare privacy in cambio di dollari, beh, non mi sembra che ci fosse una grande scelta. Aggiungo, c'era anche in corsa il leader Hamid Karzai, il leader afghano, che come sapete è considerato un protettore dei trafficanti di oppio. Beh, come ha detto Stengel, siamo in evoluzione e siamo soprattutto in crisi dell'editoria. E beh, gli esperti di marketing dicevano che una copertina con Zuckerberg avrebbe venduto in edicola più di ogni altro. Viva il marketing. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Tom Waits ce l'ha fatta, nel 2011 entrerà nella Hall of Fame della musica. Di Tom Waits, Christmas Cards from a Hooker in Minneapolis. Charlie, I'm pregnant, living on 9th Street, right above a dirty bookstore off Euclid Avenue. I stopped taking dope and I quit drinking whiskey. My old man plays the trombone and works out at track. He says that he loves me, even though it's not his baby. He says that he raised him up like he was on son. He gave me a ring that was worn by his mother. It takes me out dancing every Saturday night. Hey Charlie, I think about you every time I pass the filling station. The counter all the grease you swell in your hair. Still out that record, Little Anthony and the Imperials. Someone stole my record player. Oh, now how do you like that? Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.